Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Un uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la leru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente. Ogni volta che si fa il nome di questa scrittrice spagnola viene subito in mente il suo personaggio seriale, ossia Pedra Delicado. Lei è Alicia Jiménez Bartlett, ma stavolta ci parla di un libro in cui non c'entra nulla, non c'entrano nulla le indagini, non c'entrano nulla delitti e cose del genere. Lei, lo ricordiamo, è anche definita un po' la Camilleri spagnola, è una scrittrice molto molto amata qui da noi in Italia. Eppure devo dire che il personaggio femminile di questo romanzo, che si intitola Uomini nudi ed è pubblicato come gli altri da Sellerio in Italia, ha qualcosa che mi ricorda anche Petra, perché comunque è una donna, Irene, piuttosto volitiva, ha il senso del controllo soprattutto. Lei vuole sempre controllare tutto, è un'imprenditrice e il libro inizia nel momento in cui il marito, il 46enne, classico, crisi di mezza età, si innamora di una donna più giovane e l'abbandona. E lei quasi non versa una lacrima, nel senso che pensa solo a licenziarlo perché lavorano insieme e cerca di mantenere il controllo su questa nuova situazione di donna, diciamo, separata e poi divorziata. In questo, Alicia, hai ripreso un po' l'atteggiamento di molte donne che si trovano poi a che vedere con situazioni del genere? Sì, ma devo dire che in questo caso questa Irene, come si chiama il personaggio, ha altre ragioni per rifare la sua vita. È un po' il caso della crisi economica che ha affettato la sua azienda e questo marito l'aveva sposato un po' per interesse. Lui che ha sposato lei per interesse, quindi giusto. A un certo punto, vista la crisi, se n'è andato sia sentimentalmente che professionalmente. Giusto. Allora è una donna che non versa una lacrima perché veramente non ha un problema emozionale con lui. Sapeva che l'amore non esisteva in questo caso, in questo matrimonio. Però comunque rimane scioccata, insomma, dall'evento, perché le prime pagine si capisce che lei viene turbata dalla decisione del marito. Hai citato la crisi economica. La crisi economica, poi parleremo anche degli altri personaggi che compaiono e che sono fondamentali in questo romanzo. La crisi economica fa un po' da sfondo a tutto il romanzo, perché c'è Irene, appunto, con la sua azienda, che ovviamente è un po' in difficoltà. Dall'altra parte c'è un personaggio maschile di cui seguiamo parallelamente la storia, che si chiama Javier, è un insegnante, viene licenziato da una scuola cattolica perché non ci sono più soldi, insomma, e deve trovare il modo per barcamenarsi, insomma. Come mai hai scelto la crisi come terzo protagonista, diciamo così, del tuo romanzo? Ah, perché mi piace molto, penso che è molto importante raccontare la vita che viviamo all'attualità. Il romanzo tradizionalmente aveva un ruolo testimoniale e questo si è perduto un po'. E per me è importante perché abbiamo altre maniere di capire la realtà o di sapere la realtà, come il giornale o la radio, giustamente. Ma un romanzo va un po' più profondamente verso questa realtà, tenta di fare un'analisi. E allora mi piaceva, faceva soffrire un po' questa crisi, perché vedo che ha cambiato tante cose al mio intorno. E cambia anche i rapporti umani, perché ecco, mentre noi giornalisti parliamo della crisi, sì, dal punto di vista economico, un romanziere riesce a descrivere come cambiano i rapporti. Per esempio, il rapporto di coppia di Javier. Javier ha una relazione con Sandra, convive con lei, e nel momento in cui perde il lavoro, naturalmente iniziano anche i problemi di coppia, perché si sente un po' spogliato anche della sua identità. Non ha quasi più voglia di far nulla, lei lo pungola, ma lui fa fatica a rimettersi in sesto. È questo un po' quello che succede? Sì, veramente. Javier è un tipo molto dei nostri giorni, è un giovane, perché non ha ancora 40 anni, che non ha l'ambizione, non ha l'idealismo. Questo uomo più moderno, più giovane, pensa alla vita normale e si conforma da poco, unicamente un appartamento che vende, i suoi libri, una relazione stabile, ma non cerca grandi cose. Vive un po' alla giornata. Alla giornata. Infatti il fatto di perdere il lavoro lo mette abbastanza in crisi, lo possiamo già accennare perché insomma si capisce anche poi dalla descrizione della bandella del libro, nel senso che a un certo punto inizierà a, per guadagnare qualcosa attraverso un amico conosciuto in un modo insomma originale, a fare lo spogliarellista. A esibirsi in locali di spogliarelli maschili per guadagnare qualcosa. Come la vive Javier questa situazione? È una sconfitta per lui o è una scorciatoia? Veramente all'inizio lo vive male. Un professore che diventa stripper non è una cosa bella per lui, ma dopo vede che la vita è difficile, che non è indegno di fare questo e va avanti. Il personaggio di Irene invece, abbiamo visto, subisce sì la crisi economica con la sua azienda e poi la crisi personale, matrimoniale. Mi hanno colpito alcune frasi che tu riferisci a lei. Per esempio dici che a un certo punto gli amici l'hanno abbandonata. Cioè all'inizio tutti dicono, ah dai, adesso ce la fai, tutti danno i soliti consigli, adesso c'è chi ti dice ti godrai la vita adesso che torni single, c'è chi dice invece adesso ti staremo vicino. Invece c'è un certo punto in cui si trova completamente abbandonata, tranne un'amica. Chi è questa amica? Questa amica è una donna di 50 anni, Genoveva, che vive la vita di una maniera superficiale, godisce di questa vita. È ricca, diciamolo. Ricca anche, sì, tutte le donne in questo libro sono ricche, sono benestanti. Allora la porta un po' al suo mondo, che è un mondo amorale, dove il divertimento è la cosa la più importante, la bellezza, andare alle spa o in palestra e anche conoscere certo tipo di uomini. Di uomini, infatti, non entriamo nei dettagli perché poi diciamo che le due storie prima viste parallelamente, quella di Javier e quella di Irene, a un certo punto si intrecceranno, insomma, in qualche modo. Irene sembra lentamente avere una piccola rivoluzione proprio nella sua mente, perché da donna molto controllata, molto professionale, che segue l'azienda, eccetera, si fa un po' trascinare da questa amica su elementi più superficiali della vita. Possiamo dire che fa bene a godersela ed è una forma di liberazione la sua, oppure è una piccola caduta? Io direi che Irene non è una donna normale, ha problemi mentali, emozionali. Si rende conto che veramente la sua vita non è stata tanto facile come sembrava e che tutto l'amore che ha ricevuto è anche un attacco contro lei. Si sente un po' un oggetto di una maniera di vivere. Si è rivolta contro questo, ma non è una donna che può portare la sua vita avanti perché ha troppo problemi mentali. Sì, è una donna piena di contraddizioni. Assolutamente. In questo mi aveva un po' ricordato Petra, nel senso che comunque con i suoi dubbi, le sue perplessità, in questo senso, poi sono due donne, due personaggi molto molto diversi. Diciamo che Alicia Jiménez Bartlett in questo Uomini Nudi ha ribaltato anche un po' i canoni, nel senso che c'è questa donna che viene abbandonata, ma che è la donna ricca, la donna apparentemente forte, eccetera. C'è l'uomo invece giovane che si lascia trascinare un po' dalla vita, rimane senza lavoro, inizia a fare lo spogliarellista e così via. E poi ci sono delle relazioni che si creano, relazioni fra appunto donne di una certa età e uomini più giovani. Questa del cosiddetto toy boy, chiamiamolo così, sì. Adesso perché va di moda chiamarlo così. Secondo te è una moda o c'è un significato più profondo nell'evoluzione proprio dei sentimenti fra uomo e donna, nei rapporti fra uomo e donna? questo esiste nella realtà. Io ho saputo e ho letto al giornale in Spagna che dopo la crisi economica la prostituzione maschile è aumentata in un 30%. Allora questo mi ha colpito tantissimo e ho fatto un po' l'indagine fra le mie amiche, fra gente che frequentava questo mondo e ho visto che è diventato la cosa la più normale, ma più frequente, ecco. Più frequente. E perché secondo te? Perché le donne a volte hanno avuto matrimoni disgraziati, hanno un interesse enorme per loro lavoro, lavorano tanto e non vogliono più essere sempre al mondo emozionale, non vogliono più un compromesso sentimentale. Allora viscono un po' come gli uomini. Beh, ecco, però è curioso come la prostituzione maschile sia aumentata in relazione alla crisi, quindi vuol dire che insomma molti uomini che sono usciti dal mondo del lavoro hanno dovuto, come dire, ripiegare su questo aspetto. E le donne abbiamo una capacità economica superiore a questa che abbiamo nel passato. Sì, allora, è proprio lo specchio dei tempi, di come si è rivoluzionato. È giusto. Io ho parlato con donne che fanno questa cosa di comprare, entre virgolette, un ragazzo che li accompagna a una festa, una cena, e dopo di qui esiste il sesso o no. Ma lo fanno di una maniera più naturale, come dicendo, nella mia vita non voglio più problemi, lo faccio così e punto. Sì, forse è anche un po' diversa la prostituzione maschile da quella femminile, insomma, perché anche nel tuo libro si vede che le donne vogliono comunque, c'è un momento in cui tu dici a volte mi pagava, a volte non mi pagava, quindi è sempre un rapporto al limite fra un vero rapporto più o meno sentimentale e un rapporto invece, diciamo, commerciale, chiamiamolo così. E poi le donne hanno bisogno di essere portate a teatro, a cinema, fuori, eccetera, e non c'è solo l'aspetto prettamente sessuale. Giusto. E queste donne anche pensano che la vita li ha portato a una situazione che non è tragica. Io mi faccio accompagnare da un toy boy, ma per questo non sono una disgraziata che piange tutte le notti pensando che l'amore arriverà. No. Sono donne che in qualche modo si danno da fare, insomma, poi sì. È più o meno opinabile il come, però insomma, ecco, tu non dai mai un giudizio sul comportamento della tua protagonista, dell'amica e delle altre, quindi ti astieni proprio come scrittrice. Assolutamente, mi astengo come narratore e come autore. Io voglio posare in contatto diretto i lettori e i personaggi e non faccio un giudizio. E non è un personaggio che mi piace di più che gli altri. No, io spiego una situazione e il lettore la finisce dopo la lettura. Grazie ad Alicia Jiménez Bartlett, ora in libreria con Uomini Nudi, pubblicato da Sellerio. L'abbiamo detto, il suo nome spesso è legato al personaggio seriale di Petra Delicado, ricordiamo insomma alcuni suoi romanzi, Nido Vuoto, Il Silenzio dei Chiostri, Gli Onori di Casa, insomma, ma ora c'è questo libro che, abbiamo detto, in Spagna ha vinto uno dei premi letterari più prestigiosi. E veniamo ora a un libro e a un personaggio, un autore che stanno creando un certo scompiglio per le cose appunto che sono raccontate in questo libro. Raramente nel Cacciatore di Libri ci occupiamo di saggi, ma questa volta l'abbiamo voluto fare proprio per l'importanza del saggio di cui vi parliamo. Si intitola L'inverno sta arrivando, perché Vladimir Putin e i nemici del mondo libero devono essere fermati. L'ha scritto Kasparov, pubblicato in Italia da Fandango. Molti ricordano Kasparov come il campione di scacchi, però insomma non tutti sanno che negli ultimi 10 anni è stato un forte oppositore del regime di Putin. Ha criticato aspramente la sua politica, ha anche guidato una lista pro-democrazia nelle elezioni più o meno serie, insomma diciamo presidenziali del 2008. Adesso ha scritto questo libro, L'inverno sta arrivando, proprio per spiegare perché Putin è così pericoloso. Kasparov arriva a dire che Putin è uno dei leader internazionali più pericolosi al mondo. Sentite che cosa ci ha detto. He's the most powerful one among all of them. When people are talking about Iranian mullahs or about ISIS, Islamic State, Al-Qaeda, è uno dei più potenti. Quando la gente parla dei mullah iraniani, dell'ISIS o di Al-Qaeda, non si rende conto che tutti questi in realtà non costituiscono un problema, perché per quanto pericolose siano queste entità, di fatto hanno dei poteri limitati. Sappiamo che sfortunatamente Putin controlla il nucleare russo e quindi potrebbe minacciare tutto il mondo civilizzato e il futuro dell'umanità. E poi ci sono le azioni di Putin tese a sfidare le leggi internazionali, a sfidare gli accordi firmati da lui o da altri leader russi. Queste azioni sfrontate creano una situazione in cui la stabilità è sempre in pericolo, che sfortunatamente aiuta i dittatori dell'Iran o della Corea del Nord e i terroristi a sentirsi più forti, perché possono vedere la debolezza del mondo libero, degli Stati Uniti, dell'Unione Europea. La storia ci insegna che la debolezza provoca maggiori azioni aggressive da parte di chi si oppone alla nostra civiltà. More actions, more aggressive actions from those who are opposing our civilization. Negli ultimi 10 anni il potere di Putin è stato sempre in crescendo. Come mai nessuno dall'interno è riuscito a fermarlo? Perché i russi credono ancora in lui? We could ask the same question for Germans or Italians 80 years ago. Unfortunately, great civilization doesn't offer you immunity against dictators. Possiamo farci la stessa domanda per quello che successe 80 anni fa ai tedeschi o agli italiani. Sfortunatamente le grandi civiltà non sono immuni alle dittature. In Russia c'erano grandi aspettative dopo il crollo dell'Unione Sovietica, ma noi le abbiamo sprecate. Ecco perché ho scritto il libro, per spiegare cos'è successo in Russia dal mio punto di vista. E capisco che ci siano molte lamentele all'estero. Purtroppo ci sarebbe qualcosa da dire anche sulle reazioni dei leader stranieri che hanno aiutato Putin a diventare così potente. Se pensiamo a Bush, Blair o soprattutto a Schröder o Berlusconi, capiamo che Putin ha usato il loro sostegno nel creare l'immagine che lo ha aiutato a consolidare il potere. Ma alla fine, come avevamo previsto io e altri miei colleghi, Putin non cercava amici, ma nemici, perché è questa la trasformazione naturale di ogni dittatura. Se 10 anni fa Putin era un problema nostro, oggi è un problema di tutti. E si spera che i leader del mondo libero capiscano che se tutto rimane invariato, Putin può creare altri problemi. Ma come mai anche i leader appunto europei, i leader americani non l'hanno fermato? È una questione economica, insomma, la Russia è troppo preziosa per gli occidentali. Definitely not for the United States. I mean, it's when you look at the economic data, I mean, China is 10 times more important than Russia. Decisamente non gli Stati Uniti. Se si osservano i dati economici, la Cina è 10 volte più importante della Russia. Pensiamo ad esempio al gas russo. La gente dimentica che il gas russo era una parte importante dei consumi europei, circa un terzo. Anzi, permettetemi di specificare, dal 32 al 33%. Se guardiamo la cosa dall'altro lato, i dati sono ancora più eloquenti. La Russia vende all'Europa più dell'80% del suo petrolio e del gas. Quindi chi è che ha più potere? Dunque la Russia dipende dall'Europa più di quanto l'Europa dipenda dalla Russia. L'Europa non ha fatto nulla per diminuire la sua dipendenza dal gas russo, anche se c'erano molte alternative. Perciò, più che di economia, si tratta di mancanza di volontà politica e anche di clima intellettuale. In America o in Europa la gente non vuole correre rischi, non vuole fare sacrifici, non vuole sentire parlare di scontri. Il linguaggio della pacificazione è più apprezzato perché ci parla di libertà, di concessioni, di negoziazioni, il che va bene, ma non funziona con Putin o con gli iraniani, non funziona con i dittatori della Corea del Nord o con i terroristi. L'Europa si deve rendere conto che se vuole che il sogno dell'unità europea sopravviva anche nel XXI secolo, deve imparare a non guardare il mondo con gli occhiali rosa. Deve capire che i compromessi non funzionano con i cattivi. Deve fare in modo che i confronti diretti e gli scontri diventino una parte integrante della propria politica. Lei è stato un famosissimo campione di scacchi a livello internazionale, allora mi perdoni la metafora, forse è un po' banale, ma com'è possibile fare scacco al re Putin? Look, we have to recognize that, you know, winning the game against Putin will not be just by simply following the rules, because, you know, Putin defies the rules. So, non si può battere Putin semplicemente seguendo le regole, perché Putin sfida le regole. Combattere i dittatori richiede un'inventiva che vada al di là delle regole. C'è qualcosa che rende il nostro compito difficile. La cattiva notizia è che non sappiamo quando finirà il putinismo. La buona notizia è che non lo sa nemmeno Putin. Ma ho letto abbastanza libri di storia per poter dire che la sua fine è inevitabile. L'importante è che dopo la sua caduta riusciamo a gestire le nostre possibilità. La gente dice: dobbiamo mantenere Putin al potere perché se ne va ci sarà il caos. La mia risposta è sì, potrebbe esserci il caos, ma il problema è che se rimane ancora al potere ci sarà ancora più caos. Così prima se ne va, maggiori sono le possibilità che la Russia ritorni nel gruppo delle nazioni civilizzate, perché penso che il ruolo che la Russia avrà nel XXI secolo potrà essere decisivo nel definire il nostro futuro. La Russia potrebbe aiutare il mondo civilizzato a vincere le sfide e a definire una strategia per il futuro, ma se la Russia continua a rimanere dal lato sbagliato per troppo tempo, potrebbe essere pericoloso. Lei ora vive a New York. Come oppositore di Putin, teme per la sua incolumità. If I tell you no, you will not believe me, because, you know, it's quite natural that anybody who is opposing Putin and se le dicessi di no, lei non mi crederebbe. È normale che chiunque accusi Putin e che sia così esplicito nell'accusarlo e nel rivelare i suoi crimini non è al sicuro. Il mio caro amico Boris Nemtsov ha fatto questo a Mosca. Era un grand'uomo, il più coraggioso di tutti noi. È stato vice premier. Molti credevano che sarebbe stato lui il successore di Boris Yeltsin. Sfortunatamente Yeltsin ha fatto la scelta sbagliata, preferendo Putin. E Nemtsov è stato ucciso proprio di fronte al Cremlino. Il regime di Putin si spinge fino al punto di mettere a tacere i propri oppositori. Ho lasciato la Russia 3 anni fa, proprio sul consiglio di Boris Nemtsov, perché ero già stato convocato dal comitato investigativo russo per parlare dei gruppi ai quali appartengo. Spero solo che vivendo nel mondo libero, vivendo negli Stati Uniti, io riesca a minimizzare i pericoli. Evitando i paesi a rischio, minimizzo il pericolo. Ma naturalmente il pericolo esiste, e questa è la domanda alla quale faccio più fatica a rispondere. Perché ho una famiglia, ho 4 figli, il più piccolo ha 8 mesi, e questo ci rende tutti consapevoli. I have 4 kids, you know, just as my youngest son is 8 months old, so it definitely, you know, makes all of us nervous. E questo era Kasparov, ex campione di scacchi russo, ormai l'avete sentito, vive a New York da anni, che ha scritto il libro, diciamo, di critica nei confronti di Vladimir Putin, L'inverno sta arrivando, pubblicato in Italia da Fandango. Inizia un po' il periodo dei festival, delle manifestazioni letterarie. Quella che vi segnalo questa settimana si intitola Rovigo racconta, festival dei libri, della musica e del teatro. Da giovedì 5 maggio a domenica 8 maggio, naturalmente, nel centro storico di Rovigo. Vi faccio alcuni nomi di autori presenti. Beh, c'è il giallista Roberto Costantini, il bestsellerista, chiamiamolo così, Mauro Corona, poi c'è Diego De Silva, Paolo Di Paolo, la scrittrice molto amata Chiara Gamberale, e ancora Antonio Moresco, che lo ricordiamo è uno dei candidati al premio Strega di quest'anno, Stefano Piedimonte, Chiara Moscardelli, anche Saturnino, Simona Sparaco e Sara Rattaro. L'appuntamento dunque con Rovigo racconta dal 5 all'8 maggio, tutti gli appuntamenti, tutto il calendario su rovigoracconta.it. E prima di chiudere, come sempre, vi ricordo che ogni martedì viene pubblicata sul sito del Sole 24 Ore una nuova puntata di Autori. Si tratta di un video in cui degli scrittori leggono un breve estratto del proprio romanzo e lo raccontano con le loro parole, a modo loro. Il 3 maggio è la volta di Giuseppe Monforte. Il libro si intitola Dove batte l'onda, pubblicato da Melville. Sentiamo un breve estratto. L'auto precipita dalle mie spalle. Non capisco se stiamo salendo o scendendo. La tua mano, il buio, qualcosa che verrà, attimo dopo attimo. Il sole si salverà dall'acqua, come noi. E io ti chiederò ancora chi sei dunque, ma lo farò così, come sempre quando siamo vicini, solo per farti un complimento. Chi sei? Anche per oggi è tutto, vi ricordo che come sempre trovate tutte le puntate del Cacciatore in archivio su radio24.it, in podcast naturalmente. Grazie in regia Gianmarco Ferronato, da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.